in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Poi tra un paio d'ore ci risentiremo invece per quella dei quotidiani italiani, ma questo è il nostro appuntamento che ci accompagna anche durante l'anno. E cominciamo dalla Zeit, il settimanale tedesco che vi sto segnalando da qualche settimana. Mi sono abbonata perché non ho resistito, è un mio vecchio amore, ne ho sfogliata una per caso in un aeroporto e mi sono abbonata. Il formato è molto grande, come vi dicevo. La copertina questa settimana è dedicata alle generazioni che si affacciano al voto. In Germania si vota per le politiche e sapete, Angela Merkel potrebbe guadagnarsi il suo quarto mandato come cancelliere, il che vorrebbe dire altri cinque anni alla guida della Germania. E questi giovani sui quali vuole indagare la Zeit sono una generazione che di fatto ha conosciuto solo Angela Merkel come cancelliere e che ora alcuni di loro almeno potranno votare. Hanno conosciuto un mondo molto diverso da quello dei loro genitori. Sappiamo che ormai in questi giorni stiamo un po' non celebrando ma marcando i 10 anni di una crisi economica iniziata nel 2007 negli Stati Uniti. Questa crisi dai giovani è stata sentita tutta, direttamente o indirettamente, e quindi sono la grande incognita, perché hanno bisogno di strumenti diversi probabilmente per capire come relazionarsi con la politica. All'interno anche naturalmente molti servizi sulla questione dell'industria automotive tedesca, un po' perché non è ancora digerito del tutto il cosiddetto Dieselgate, lo scandalo che ha coinvolto in primis la Volkswagen, che è proprio un simbolo della Germania, che è stata scoperta a truccare i dati sull'emissione dei motori diesel, uno doppio shock, se vogliamo, per la Germania. Primo, perché ai tedeschi piace, anche a ragione, reputarsi nei limiti del possibile persone corrette individualmente e anche come aziende. Quindi primo shock scoprire che in realtà è stata orchestrata questa mega truffa ai danni tra l'altro di consumatori di tutto il mondo, perché Volkswagen è una delle più importanti produttrici di auto al mondo. L'altra parte dello scandalo naturalmente è il fatto in sé, perché questo aver truccato i dati sulle emissioni diesel ha avuto delle conseguenze poi su tutta l'industria, perché molte altre aziende sono corse ai ripari, magari anche giocando d'anticipo, forse non tutti avevano la coscienza pulita. Comunque la questione del diesel da 2 anni a questa parte è al centro del dibattito politico e si ipotizza anche proprio di imporre per legge una produzione minore di motori diesel. Poi vi segnalo che la Zeit ormai da parecchie settimane ha una sezione dedicata proprio ai libri per ragazzi. L'avevamo anche noi sul domenicale del Sole 24 Ore, credo riprenderà dopo l'estate. Però secondo me è molto interessante, primo perché tra i tanti settori dell'editoria quello per i ragazzi è quello meno in crisi, e poi perché nei libri per ragazzi, specie nelle fasce di età più giovani, ci sono, tra l'altro, c'è il contributo di illustratori, di fumettisti, di artisti, che li rende tra l'altro piacevolissimi allo sfoglio anche per gli adulti. Poi vi segnalo Monocle. È in realtà un mensile. L'ha fondato Tyler Brulé, che si era inventato anche wallpaper, è un po' un guru dell'editoria contemporanea. E questo Monocle, che ha la redazione a Londra, da mensile poi è diventato, ha avuto molti, possiamo dire, spin-off. Ha una radio che tra l'altro si può, come si può fare con Radio 24, si può ascoltare anche in podcast, ha delle edizioni speciali per l'estate. Quest'anno l'edizione speciale dell'estate l'ha dedicata sostanzialmente all'Italia ed è distribuita molto bene soprattutto nelle grandi città italiane. È molto interessante perché parla poi di temi che ci toccano molto da vicino, dalla Brexit alla questione del risico aereo. Sappiamo che all'Italia ha ancora un futuro abbastanza incerto, ma si è unito anche l'incertezza del futuro di Air Berlin. Quindi tutta una serie di temi con articoli che nella filosofia di Tyler Brulé non devono mai essere troppo lunghi, ma il più originali possibili. E anche la grafica vedrete, perché tra l'altro mentre Monocle mensile è il classico magazine con un formato più o meno a 4, questa Summer Weekly Edition è invece un formato tabloid, quindi un po' come se fosse un quotidiano. Torniamo in Germania o torniamo al Dieselgate perché ho trovato una vignetta sulla Groene Amsterdamer, un quotidiano olandese, e in realtà poi l'ho trovata grazie a Vox Europe, e c'è un signore che fuma una sigaretta, ma sulla punta di questa sigaretta c'è una macchina e tiene in mano anche il pacchetto di sigarette dove c'è scritto Diesel is tödlich, cioè il diesel porta alla morte. Questo è un po' l'ultimo capitolo, spiega Vox Europe sotto la vignetta del Dieselgate, l'alterazione delle emissioni inquinanti di alcuni motori diesel durante i test. I principali delle case automobilistiche tedesche, abbiamo citato Volkswagen, ma come abbiamo visto poi non sono immuni da malversazioni, non sono stati immuni da malversazioni Audi, BMW, Daimler, Opel e Porsche. E il 2 agosto si sono riuniti a Berlino, da qui l'occasione anche per questa vignetta, per mettersi d'accordo una volta per tutte con il governo federale, quindi quello guidato da Angela Merkel e quello dei singoli Länder, perché la Germania è appunto un paese federale, fatto di queste macro regioni che si chiamano Länder, Land al singolare, Länder al plurale, e in questa occasione è uscito l'impegno formale a installare un nuovo software nei motori, pensate, di 5,3 milioni di automobili diesel solo in Germania, che veramente riduca le emissioni. Restiamo in Germania, perché la Süddeutsche Zeitung si è invece occupata del Monte dei Paschi di Siena, dicendo che quanto è accaduto al Monte dei Paschi, che è il più antico istituto bancario al mondo, è stato veramente il pericolo più grave che questa banca ha corso nei suoi 545 anni di storia. In realtà, però, secondo l'analisi della Süddeutsche Zeitung, il Monte dei Paschi, che ha sperimentato il primo aumento di capitali preventivo, non ha mostrato risultati particolarmente apprezzati dagli altri paesi. E quindi, forse si capisce, è stata una lezione che si potrebbe imparare per capire quanta fatica fanno le istituzioni competenti europee con l'interpretazione e l'applicazione delle loro stesse regole. E sulla vicenda del Monte dei Paschi ha scritto anche Le Figaro, il quotidiano francese, definendola l'anello debole del sistema bancario italiano e che però si è decisa a fare pulizia nei suoi conti. Le Figaro ha spiegato che la terza banca italiana, dopo Banca Intesa e Unicredit, ha annunciato questa gigantesca perdita di 3,243 miliardi di euro solo per il primo semestre di quest'anno e che il piano di salvataggio prevede quella ricapitalizzazione preventiva di cui parlava anche la Süddeutsche Zeitung di 8,3 miliardi di dollari. Invece Le Monde, per restare in Francia, ha pubblicato un interessante articolo intitolato Tentazione cinese, sogno italiano, in cui si parla degli investimenti cinesi in Italia che in questi ultimi anni si sono concentrati principalmente nella macroregione attorno a Milano. Il quotidiano racconta l'esempio di Mortara, un comune in provincia di Pavia, scelto dal gigante di Hangzhou Group come terminal dei treni provenienti dalla Cina, dopo un accordo firmato di recente, il 5 giugno. Poi c'è l'acquisto nel 2015 di Pirelli, definita una vecchia icona del miracolo economico milanese, che è stata acquisita da ChemChina, che è un conglomerato di fatto dipendente dal governo cinese. Poi, questa è stata una delle operazioni definite più spettacolari, ma se ne ricordano anche altri, come l'acquisto di Crizia, una storica maison italiana di moda, e poi naturalmente le partecipazioni nell'Inter e nel Milan. In questo modo, scrive Le Monde, l'Italia sembra pronta a fare di tutto per non restare esclusa dalle nuove vie della seta che si stanno aprendo. E guardate com'è originale questa operazione, visto che sappiamo che quando succedono queste cose in Italia si grida subito all'invasione, alla svelta dei gioielli di famiglia, eccetera. Invece si può anche vedere in quest'altro modo, cioè è chiaro che Italia e Cina possono mettere, quando si affacciano sullo scacchiere mondiale, in campo risorse diverse, ma facendo entrare delle aziende, dei capitali stranieri nelle proprie aziende, mantenendo comunque in qualche modo una presenza gestionale, forse, questo almeno pensa Le Monde, è un modo furbo, forse potremmo dire, per non restare esclusi da queste vie della seta. Ho trovato molto interessante, per tornare sulle Figaro, anche un'intervista rilasciata dal ministro degli interni francese Gérard Collomb al quotidiano. il cui titolo potrebbe essere, il cui senso potrebbe essere riassunto così: l'Italia ha preso delle decisioni coraggiose, strutturando ad esempio i guardacoste libici per dissuadere i trafficanti. Il riferimento naturalmente è alle azioni del ministro degli interni Marco Minniti, che ha preso il posto di Angelino Alfano, che era ministro degli interni e ora è ministro degli esteri. E tra il codice per il comportamento delle ONG nel Mediterraneo, i rapporti sempre più stretti con la Libia, che hanno portato a questo nuovo comportamento della Guardia Costiera Libica, la Francia ammette che è stato un percorso difficile e soprattutto coraggioso. Un'ultimissima segnalazione ve la faccio da Financial Times. Abbiamo detto, ci ricordiamo dei 10 anni della crisi. Financial Times spiega che i piani dell'amministrazione Trump e del congresso a maggioranza repubblicana premono per un ammorbidimento della regolamentazione bancaria con alcune famose direttive prese dopo la crisi di Lehman Brothers, il crack di Lehman Brothers del settembre 2008, e questa non è una buona notizia, perché deregolamentare ulteriormente o fare un passo indietro, soprattutto per quanto riguarda la finanza, i derivati e tutti quei prodotti che possono costituire un po' delle minacce sotto il sistema finanziario e quindi per l'economia reale, secondo Financial Times, che tutto è meno che un organo di una così di una centrale di centrosinistra, ecco, secondo Financial Times è molto pericoloso, e si spera che non succeda, che vengano mantenute le attuali regole. Era l'ultima segnalazione per oggi. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.